as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Oggi puntata metalmeccanica, puntata di lotta, puntata dedicata ex Minarelli di Calderara di Reno, oggi Fantic Motor. Chi ascolta, chi segue Il Pane e le Rose saprà che abbiamo spesso affrontato sia quando c'era la Yamaha Minarelli e poi quando c'è stato il passaggio con la Fantic Motor, abbiamo fatto diverse puntate. L'altro giorno ci siamo trovati davanti ai cancelli della Minarelli insieme ai lavoratori che erano in sciopero, in protesta per una cassa integrazione che sta facendo preoccupare moltissimi lavoratori. Adesso ascoltiamo un bellissimo pezzo. Ricordo a tutti che potete trovare la pagina podcast, la puntata, per chi non riesce ad ascoltarla in radio, visto l'orario, sulla pagina podcast di Pane e Rose. E lì metterò anche i link della musica che inserisco nelle puntate, così potete trovare i punti di riferimento. A dopo, intervista con adesso questo pezzo stupendo, poi l'intervista con Edoardo Panico, funzionario della FIOM, della ex Minarelli Fantic Motor. Blood running high. Blood running high, yeah, selling love. Asking for the why. Blood running high, gas selling low. Asking for the why. If you know, you know. If you don't say so anyway. In between the notes, just don't be in the way. Blood running high, gas selling low. Asking for the why. If you know, you know. If you don't say so anyway. In between the notes, just don't be in the way. Who can make the pen move? Who can make the rocks cry? To be continued. Bizarre by own eye. For true, true worldwide. Long nose, the impact, hat, cool snap. Triple fat, feathers, long sufferer. Wrestle not in the flesh. I'm drilling in a blizzard. We was raised on chicken gizzards and that brown gravy. White rice, Frankie, I'm a gravy. Blacked out in Paisley. Shots peel, holes everywhere. No solicitors, only built for residents and they visitors. Concrete and metal, but every prison has its particulars. I bend time like prisoners. Keys bent from time after time, turning and twisting. This is very delicate, and everything you do here affects other beings. It reaches all the way up to God. Allora, siamo qui davanti alla Minarelli, ex Minarelli, oggi Fantic Motor, i lavoratori in sciopero, siamo col funzionario Edoardo Panico, siamo qui per chiedere a lui che sta succedendo, perché insomma io sono qui a lavorare in Bonfiglioli, abbiamo saputo di questa manifestazione, di questa protesta e siamo arrivati. Raccontaci, cosa è successo? Fantic Motor... Fino all'anno scorso sembrava un'azienda in tutti a festeggiare, anche oggi Gragnani, il nostro segretario, ha ricordato che c'era anche l'assessore Colla, tutti felici, che è arrivata questa azienda dal Veneto e oggi siete tutti qua fuori a protestare. Ma quello che è successo è, diciamo, un interrogativo anche per noi in qualche modo, no? Perché? Perché un anno e mezzo fa ci trovavamo a festeggiare nuove linee, nuovi prodotti, sembrava un'azienda che ci prospettava che entro il 2025 sarebbe arrivata a 500 milioni di fatturato e oggi invece ci troviamo con parte del gruppo, cioè la Motori Minarelli, quelli che loro fanno, il pezzo che fa il veicolo e che fanno i motori, in qualche modo alla 41esima settimana di cassa. Senza prospettive, sappiamo che loro hanno un sacco di debiti con i fornitori, non capiamo come vogliono pagarli, ad oggi sappiamo che ci sono intorno ancora ai 20 milioni di debiti con i fornitori, non hanno prospettive rispetto all'arrivo di pezzi, i lavoratori e le lavoratrici ci dicono che l'organizzazione del lavoro è gestita veramente male, pezzi presi e rifatti tante volte, quindi la prospettiva non è chiara. In più oggi è successa anche un'altra cosa dall'altro, cioè per la prima volta l'azienda dice che non farà maturare nessun istituto contrattuale ai lavoratori e alle lavoratrici e questo li colpisce ancora di più perché soprattutto gli operai purtroppo e gli operai ha colpito questa cassa integrazione e il fatto che operai e operaie che sono stati messi in ferie forzate e che ad oggi viene detto pure che non matureranno ferie tutti quelli che sono i rati in qualche modo vengono messi in forte difficoltà. Quello che noi chiediamo oggi è intanto il fatto che si rispettano gli accordi, ok? Perché se noi mettiamo il principio di rotazione, perché capiamo che sia un momento di crisi per tutti, è giusto che la crisi si divida per tutti e non che solo una parte dell'azienda subisca quella che è la crisi che questa azienda sta vivendo. Dall'altro vogliamo chiarezza rispetto alle prospettive. Qua erano stati lanciati dei prodotti nuovi che sappiamo che non sono andati bene, ma non vediamo prospettiva con i prodotti che ci hanno detto che faranno. I lavoratori e le lavoratrici dicono che questi prodotti non sono pronti per il mercato e quindi rispetto a tutto questo vogliamo chiarezza. In più c'è una cosa, anche qua sono stati chiusi a settembre i contratti in somministrazione, anche l'occupazione in qualche modo ci preoccupa, un'azienda come questa che viene da un passato di lotta, ma non passato anche in qualche modo che ha visto molte fuoriuscite, era un'azienda che era arrivata quasi a 400 dipendenti, si è ritrovata dopo un anno, dopo una crisi economica a 150, quindi questi lavoratrici e questi lavoratori sono molto preoccupati rispetto a quelle che sono le loro prospettive future. Quali sono i prodotti che volevano rilanciare, che non stanno andando bene? Ma forse è collegato un po' a quelle che sono le politiche industriali, no? Perché loro avevano lanciato due motorini elettrici, due scooter elettrici, che però non sono stati presi bene dal mercato, diciamo, no? E questo ci dovrebbe far domandare anche quali siano le politiche di transizione in Italia. Io ricordo a tutti che il 7 luglio di anno scorso noi sciuperammo davanti a Industria Italiana Autobus proprio per chiedere al governo quali sono le prospettive di transizione per questo paese, quali sono le prospettive di cambiamento del piano industriale. Beh, secondo noi oggi purtroppo le aziende sono lasciate da soli, non c'è una prospettiva, non c'è un disegno da parte del governo e questo è anche quello che fa sì che le aziende non abbiano un'idea ben chiara di quello che sarà il loro futuro e dove investire. Oggi sembra quasi, guardando l'Europa, guardando quello che sta succedendo, che si torni indietro rispetto all'elettrico, si torni indietro rispetto alla transizione. Ma allora noi ci chiediamo qual è il futuro, no? È ritornare all'endotermico, ritornare insomma a, come posso dire, la causa del problema del cambiamento climatico? Questa è la domanda. Abbiamo gli stabilimenti di Audi che chiudono, gli stabilimenti di Volkswagen, una crisi dell'automotive in qualche modo che è, come posso dire, diffusa e su questo vediamo il governo veramente inerme. Ma invece il settore endotermico, cioè le moto che si producono qui, Fantic che qua faceva diversi tipi di moto. Qua si facevano i motori innanzitutto, adesso si fa anche il veicolo. Adesso si cerca di produrre tutto il veicolo. Le moto sono le cose che tengono, loro hanno delle moto da fuoristrada, insomma da cross, e il cinquantino che comunque continua a tenere, ma non basta per tenere un'azienda di 200 passa persone qua a Bologna, ma che poi ha nel nord comunque Fantic e Bottecchia, che sono parte del gruppo, e sono quelle forse inizialmente sono state anche più colpite dalla crisi. Perché? Perché loro producevano bici, le bici elettriche, che in questo momento hanno un calo del mercato del 60-70% fondamentalmente. Sì, perché in effetti nel mercato italiano sta perdendo moltissimo. Diciamo che loro nell'onda del Covid, nell'onda di quel mercato, tutti hanno investito in quel mercato, un mercato che si è riempito e che in qualche modo forse non risponde anche alle esigenze della gente. I cinesi ne fanno da padrone. Questo è anche un altro lato, perché bravissimo, i cinesi, da una parte oggi abbiamo un mercato... Io ho la bici elettrica, a me è spagnola, la mia bici, sono sincero, l'ho comprata spagnola, costa meno, è più performante, quelle cinesi sono migliori di quelle europee. A differenza di qualche anno fa, quando avevamo prodotti cinesi che però venivano detti, no, è proprio il prodotto cinese veniva visto come un prodotto cattivo, no, di cattiva qualità, oggi la prospettiva è cambiata in qualche modo. I prodotti cinesi non sono più di cattiva qualità, sono di ottima qualità. Ma settimana scorsa il nostro segretario nazionale Landini diceva una cosa in televisione, cioè che noi non ci stiamo accorgendo che stanno cambiando gli equilibri mondiali in questo paese. L'Europa e l'Occidente, che erano stati, avevano avuto il primato mondiale rispetto alla metalmeccanica, rispetto insomma a quello che era l'industria generale, oggi non siamo più così. Oggi probabilmente c'è chi è davanti a noi, e per questo dobbiamo chiedere qual è la prospettiva per il nostro paese e per il nostro comparto industriale. Certo, dunque adesso si prospetta degli altri scioperi, altre manifestazioni. Ora vedremo, questo era un segnale che noi volevamo dare all'azienda. Fortunatamente i lavoratori e le lavoratrici hanno risposto a questo segnale. Noi oggi partiremo con un percorso che, insieme anche ai segretari generali di FIOM e FIM, che in qualche modo chiederemo alla città metropolitana un tavolo per avere chiarezza rispetto a quelli che sono le prospettive economiche e le prospettive industriali e occupazionali di questa azienda. Sì, perché diciamo la crisi della Fantech Motor, io seguo anche un po' il settore, mi piacciono le moto e anche le bici elettriche, è una cosa, la Fantech sapevamo che non, nelle vendite anche delle moto non è tra le prime, non stiamo parlando di Ducati, parliamoci chiaro, comunque è un settore di nicchia che ha tanti concorrenti anche in Europa, e questo infatti eravamo tutti preoccupati, i lavoratori i primi, ogni volta che mi incontravano dicevano adesso si cercherà qualcosa di più sicuro, no? I debiti verso i fornitori è il problema più grosso che si ha. Sicuramente. Spesso ci si può anche andare in crisi anche se si hanno gli ordini, se non si hanno i prodotti, cioè se non si ha la roba da montare. Problema enorme. Questo è quello che ci preoccupa in qualche modo, per questo chiediamo anche che le istituzioni si facciano garanti. Fortunatamente stiamo in una regione in cui il collettivizzare sindacato e istituzioni ha portato dei risultati. Vediamo, diciamo, la Marelli, vediamo tutte quelle crisi industriali che in qualche modo hanno fatto sì che l'azienda magari cambiasse, ma che i lavoratori e le lavoratrici mantenessero il loro posto di lavoro, e questo per noi è l'obiettivo primario: la salvaguardia del posto di lavoro e la salvaguardia di questa azienda. Naturalmente è quello che noi ci chiedevamo anche quando avevano lanciato questi prodotti, e chi li comprava, no? Perché se uno lancia delle bici anche con una crisi economica che se ne parla poco a livello governativo, ma che noi che viviamo le aziende la vediamo, certo. Perché nel panorama bolognese tantissime aziende sono in crisi economica, se lanci dei prodotti da 7, 8, 9 mila euro ci chiediamo chi te li compra questi prodotti, certo. No? In un mercato che per l'appunto è diventato sempre più globalizzato, e abbiamo dei competitor che lanciano dei prodotti di qualità alla metà del prezzo. Certo, questo è un problema enorme. Allora, noi siamo con voi, siamo qui, saremo sempre presenti, e la Mignarelli è anche la nostra storia, chi nel territorio di Calderara ha sempre lottato, loro sono stati affianco a noi tante volte, noi siamo stati con loro tantissime volte, ci dispiace perché pensavamo che fosse risolta, perché noi abbiamo vissuto tutta la vecchia crisi della Mignarelli, pensavamo che i lavoratori potessero essere un po' più tranquilli, però la lotta dura sempre, bisogna mai smettere di lottare. L'importante è che in qualche modo, finché i lavoratori e le lavoratrici avranno voglia di lottare, ci sarà un sindacato che in qualche modo li appoggia e li guida in questa lotta. Ed insomma. È questa sicuramente la FIOM. Grazie. abbiamo ascoltato l'intervista con Edoardo Panico, ricordo a tutti, lui funzionario della FIOM che segue la Fantic Motor, ex Maniti Marelli di Calderara di Reno. Allora, ricordo a tutti che potete trovare la puntata in podcast sulla pagina Facebook Il Pane delle Rose. Allora, avete ascoltato quello che ci siamo detti con Edoardo. Ora, siamo di fronte a una situazione molto molto delicata. Non è automotive, ma è il settore delle moto, ed è un settore che anche quello in alcuni tipologie particolari di moto, soprattutto gli scooter elettrici che gli italiani non vanno, anche le bici elettriche pare ci sia una contrazione, soprattutto nel mercato italiano, ma anche nel settore endotermico c'è un problema. La Fantic non sta vendendo tantissime moto, ci sono i debiti, i lavoratori pagano le conseguenze. Purtroppo è così, arrivano questi imprenditori, in questo caso sono arrivati dal Veneto, hanno preso milioni e milioni di finanziamenti, hanno investito anche i loro soldi, hanno pensato di fare dei progetti, i progetti non vanno, le moto non si vendono e le famiglie rimangono senza stipendi. Poi vanno in cassa integrazione, come è successo a loro, questi lavoratori. La cassa integrazione ormai nell'ex Mignarelli è una cosa, cioè sono lavoratori che hanno fatto anni e anni di cassa integrazione. In passato era una cosa normalissima, spesso si faceva anche per sostituire periodi di calo strutturali, stagionali. Ora, cosa dire, il tavolo è importante, la richiesta fatta dalla FIOM per discutere del futuro, soprattutto vedere come la situazione debitoria, perché è importante, perché spesso si possono anche vedere gli ordini e si possono anche vendere dei prodotti, ma se i debiti sono esagerati si rischia anche di chiudere. Speriamo questo non accada. Noi saremo sempre a fianco dei compagni della Motori Mignarelli, adesso Fantic Motor, saremo sempre con loro, al loro fianco. C'è solidarietà a Calderara, soprattutto tra le aziende che hanno sempre fatto solidarietà l'uno con l'altro, parlo dei lavoratori chiaramente. Insomma, vigileremo su questa vicenda, vi aggiorneremo su varie eventuali novità. Il settore delle moto è un settore comunque molto molto pericoloso in questo periodo, soprattutto se non hai dei mercati ben stabiliti. Speriamo che questo non accada ai lavoratori della Fantic Motor e possano uscire da questa crisi. Ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao a tutti. Orgoglioso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Con esta cantada sanguijuela, los que me roban mi dignidad.